luoghi d'arte. Un saluto da Marco Carminati, sono a Pisa e sto per visitare una mostra piuttosto interessante che è allestita al Palazzo Blu di Pisa, nei Lungarni. È una mostra dedicata a un grandissimo artista francese, Henri Toulouse-Lautrec, il grande maestro del post-impressionismo, che qui viene raccontato attraverso un taglio abbastanza particolare. Noi sappiamo che questo artista era vissuto soprattutto a Parigi, anzi nel quartiere di Montmartre, dove aveva lo studio, dove aveva studiato e dove si era circondato di amici e di modelli soprattutto. Infatti questo artista è stato uno dei cantori più sensibili e più efficaci di questa belle époque che caratterizzava la vita del quartiere di Montmartre, dove c'erano naturalmente signori eleganti, prostitute, café chantant, questo ambiente frizzante dove però Toulouse-Lautrec coglie la vena di malinconia, la vena di dolore, e lo fa nella mostra, si vede molto bene, soprattutto attraverso le litografie, che era una tecnica messa a punto proprio in quel periodo. Si potevano fare delle stampe a colori, in poche parole, ed ecco che la mostra racconta questo innamoramento di questo artista, che era un grandissimo pittore anche, tra l'altro tentava di superare l'impressionismo attraverso una pittura piena di malinconia, piena di psicologia, perché i personaggi di Toulouse-Lautrec sono pieni di elementi psicologici, ma nei manifesti diventa una, diciamo così, una capacità di raccontare ancora meglio questo mondo. Lo fa tra l'altro attraverso qualcosa di molto moderno, è uno dei primi a usare questi manifesti, che non sono altro che manifesti pubblicitari. Noi abbiamo le catene delle biciclette pubblicizzate da manifesti di Toulouse-Lautrec, abbiamo i confetti, abbiamo soprattutto i manifesti degli spettacoli che venivano offerti in queste serate. Quindi la mostra non fa altro che portarci passo dopo passo tra le luci e le ombre in Montmartre. Questo è il sottotitolo della mostra, e ci darà la possibilità di entrare anche noi facendo una passeggiata in questo magico mondo della Belle Époque.